Carissimi amici, eccoci. Un bel Aleger da Paolo Travagnin e Marino Midena, eccolo qua. Eccoci qua di nuovo. Esatto. Allora, ennesima puntata, mentre Marino si dirige, prende l'automobile, va nel suo studio in regia dall'altra capo del mondo, io vi do il nostro contatto. 339 39 90 836 per quanto riguarda il contatto telefonico. info@icebrandnews.it per quanto riguarda il contatto telematico, contatto via email che state usando tantissimo, io vi ringrazio. Naturalmente visitate il sito www.icebrandnews.it. Per quanto riguarda il vostro materiale che noi stiamo ricevendo copiosamente come sempre e che riceviamo con grande piacere, Paolo Travagnin, Iceberg News, via Ennio Bonifazi 36/5 00167 Roma. Mi raccomando, inviatelo in tempo perché siamo invasi da vostro materiale, chiaramente è tutto molto interessante, noi lo riproporremo e lo proporremo in trasmissione, ma chiaramente Iceberg News è piccolina, i suoi 30 minuti si esauriscono velocemente. Subito la parola a Marino in regia per sapere cosa ci aspetta questa sera. Marino? Eh sì Paolo, è una puntata ricchissima, quindi invito proprio i telespettatori a stare incollati sullo schermo, sulla televisione. E di televisione e di danza parleremo proprio nelle news, i nostri appuntamenti di lavoro importantissimi che sono seguitissimi, il solito appuntamento con la clip musicale, bellissima, un personaggio famoso, Manuel Lattieri, con la canzone Love. Le videopoesie che soltanto noi ad Iceberg News proponiamo, Pablo Neruda, Walking Around, un momento veramente lirico altissimo, ma altrettanto alto come lirismo e come bellezza e quello che ci propone il nostro ospite Davide Manuli con un film fatto nel 1999 ma che esce oggi in DVD, quindi la novità è proprio questa, grazie alla rivista Filmmaker Magazine che fa uscire da questo mondo di invisibilità quest'opera che è girotondo intorno al mondo. Davide Manuli lo potete vedere comprando Filmmaker Magazine. Noi intanto vediamo l'anticipazione e il trailer nel corso della trasmissione. Paolo, so che devi presentare qualcosa, ti do subito la parola. Grazie Marino, come sempre puntuale e preciso. E come dicevi tu, un bel videoclip. Allora, ci sono arrivate delle richieste abbastanza pesanti, nel senso di molte richieste, su un videoclip che abbiamo trasmesso qualche tempo fa e che noi ritrasmettiamo volentieri, perché lui è uno dei nostri belli e bravi giovani artisti, Autieri, Manuel Autieri, che chiaramente voi conoscete già benissimo. Il video è molto carino e ci dà anche dei segnali interessanti proprio per questi tempi invasi di nuove tecnologie un po' troppo computerizzate che ci portano un po' lontano dalla realtà. Manuel invece ci dà un bel segno con questo videoclip, Love, chiaramente, e Dulcis in fundo, verso la fine del videoclip ci gustiamo un grande chitarrista che conoscete tutti, Ricky Portera, che ha voluto contribuire alla realizzazione di questo videoclip. Perciò ci vediamo tra qua. Ciao! Impazzire, sai, no, ora mi sono. questa foto qui girata a me. Hai nei tuoi occhi una speranza che non vuoi perdere. Voglia di restare qui con te, di fare di ogni attimo un perché e scrivere un messaggio nuovo che dirà così, ancora così, mi fa impazzire, sai. Eccoci rientrati in Iceberg News. Vi è piaciuto il chitarrino di Ricky Portera? Lo so. Allora, immediatamente carta e penna per la nostra opportunità lavorativa, come voi siete abituati. Ed è un programma giunto alla terza edizione, Casting Live. Perciò un programma simile, un po' simile al nostro, che vi dà l'opportunità di esibirvi. Chi volesse partecipare può farlo mandando le proprie credenziali e le proprie così, abilità a casting@castinglive.it che vedete in sovrimpressione. Ma passo immediatamente la parola a Marino nel salottino con il nostro graditissimo ospite. Marino? Eh sì Paolo, dici giustamente, un graditissimo ospite, perché ho il piacere di avere accanto a me Davide Manuli, un regista che io trovo bravissimo, in qualche modo rivoluzionario potremmo dire, e l'occasione per presentarlo ci viene data da un mensile, un neomensile, perché fino a poco tempo fa era un trimestrale, che ha cambiato periodicità, e Filmmaker Magazine, che esce con ogni numero, ogni mese, con un DVD strappato all'invisibilità, nel senso che è andata a scegliere quei film indipendenti italiani ma anche internazionali che pur avendo interessato moltissimo non hanno mai avuto la fortuna di uscire ancora in DVD e quindi di essere conosciuti al grande pubblico. Il film allegato a Filmmaker Magazine è girotondo attorno al mondo e regista è appunto Davide Manuli. Sera. Buonasera. Sera. Raccontare Davide Manuli è complicatissimo perché è un personaggio di rilievo, insomma. Io quando ho visto il sito ho scoperto assistente di Al Pacino, attore per Mike Newell, Milos Forman, sì, sì. Ci vuoi raccontare un pochino la tua carriera e soprattutto l'esperienza americana, perché tu hai studiato all'Actor Studio. Sì, sì, sì, una specie di Zelig italiano. Allora, la mia esperienza è iniziata nell'87 negli Stati Uniti, dove ho fatto da assistente per il padre adottivo di Al Pacino, mentre studiavo e lavoravo, diciamo, in teatro e in cinema. Ho fatto da assistente poiché lui insegnava recitazione, il padre adottivo, e era malato di sclerosi multipla, perciò io diciamo che mi occupavo di lui come persona oltre che stare diciamo che fare da assistente per la produzione. Ho capito. Quindi un'esperienza molto faticosa. Sì. E poi sei approdato al grande schermo con Mike Newell. Sì, quella è stata una casualità. Ero a Roma, mi avevano chiesto di fare un provino e c'era Mike Newell che aveva appena fatto Ballando con uno sconosciuto, con Rupert Everett, doveva fare il nuovo film che era L'incantevole aprile, e da girare a Portofino. Era la storia di due inglesi in vacanza in Italia e c'era bisogno, diciamo, di far vedere un po' lo stereotipo degli italiani, e mi hanno preso per un piccolo ruolo. Una bella esperienza. Sicuramente non americano, almeno nei connotati con cui siamo abituati a individuare il cinema americano, è il film che invece è allegato a Filmmaker Magazine e che presentiamo oggi, Girotondo intorno al mondo. Lo facciamo vedere e possiamo farlo vedere anche meglio, perché abbiamo un piccolo trailer, così introduciamo un pochino il film stesso. Adesso facciamoci. Dov'è adesso? Eh? Cristo! Cristo! Dove l'hai portato? Eh? Che... Ah! Ah! Perché? When he talked, he thought he was a candyman. Don't be so rough. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Catch by the flag, well, how about that? Please, don't you panic. Hey! Cazzo! Vai via! Sparisci! Dov'è mio marito? È morto. Guarda, sono pulita. Non ho ferite, non ho tagli, non ho niente. Puoi anche non baciarmi se vuoi. I medici mi hanno dato un anno di vita. Dammi un figlio, ne ho bisogno, per lasciare un segno su questo mondo. Eccoci qui di nuovo in studio, accanto a me Davide Manulli, lo vedete, abbiamo visto il trailer del suo film, Girotondo attorno al mondo, immagini molto forti, potremmo dire un film senza geografia, quasi apolide, che parla di periferie, di droga, di difficoltà di di vivere. Però in realtà io ho trovato il film molto poetico perché è una continua ricerca dell'amore, vero Davide? Sì, diciamo che è sbagliato definire questo film un film sulla droga, secondo me, nel senso che la droga è un punto di partenza per andare ben oltre la droga, cioè nel senso in un luogo libero. Sì. È un pretesto per raccontare. La droga è un pretesto per raccontare. C'è una bellissima scena di tre personaggi che ballano a un ritmo forsennato in una toilette che crea, dia un senso liberatorio altissimo. Insomma. Ma guarda, per me il punto è quando uno dice quello può fare quello che vuole perché si droga. Ecco, per me questo è il punto di partenza perfetto, perché sono libero di dire quello che voglio. Quindi è una scelta. Una scelta, nel senso, se uno dice che uno perché si droga è più libero degli altri, io come artista preferisco essere più libero degli altri. Certo, una tematica comunque forte, insomma. È una scusa per prendersi una libertà che oggi non c'è più, secondo me, a livello narrativo. Dico. Certo, sì. E quindi accettare la capacità di uscire dagli schemi. Assolutamente. Beh, sei uscito negli schemi anche scegliendo il bianco e il nero. Ma direi sono uscito dagli schemi per l'Italia, ecco, perché comunque Jarmusch fa tutta la sua carriera in bianco e nero, come si chiama, Woody Allen ne fa altrettanto, cioè purtroppo siamo, non lo so, a me sembra che in Italia ci si sia dimenticati da 30 anni a questa parte cosa vuol dire far cinema. Veramente. Senti, io ti invito a restare accanto a me e ti invito anche a vedere quello che adesso Paolo ci presenta, perché è un prodotto molto particolare, una proposta che ci onora come piccola trasmissione. Paolo, a te la parola. Sì, come hai detto tu, siamo veramente contenti di ospitare tra le nostre immagini uno dei sunti del nostro sottotitolo, Parole sono immagini. E queste sono le videopoesie che ci arrivano e che noi riproponiamo sempre molto volentieri. Un grande nome, un grande autore, Pablo Neruda, Walking Around è il titolo della videopoesia di questa settimana e ce la gustiamo insieme a voi. Eccola. Accade che mi stanco d'essere uomo. Accade che entro nelle sartorie e nei cinema, avvizzito, impenetrabile, come un cigno di feltro che naviga in un'acqua di origine e di genere. L'odore delle sale di barbiere mi fa piangere a gridi. Voglio solo un riposo di pietra o di lana. Voglio solo non vedere costruzioni e giardini, né mercanzie, occhiali e ascensori. Accade che mi stanco dei miei piedi e delle mie unghie, dei miei capelli e della mia ombra. Accade che mi stanco di essere uomo. Dopotutto, sarebbe delizioso spaventare un notaio con un giglio spezzato o uccidere una monaca con un colpo d'orecchio. Sarebbe bello andare per le vie con un coltello verde e gridando fino a morire di freddo. Non voglio essere più radice nelle tenebre, vacillante, disteso, con brividi di sonno, qua giù, tra i recinti bagnati della terra, ad assorbire e pensare, a mangiare tutti i giorni. Come il petrolio quando mi vede arrivare col mio viso di carcere e urla nel suo trascorrere come una ruota ferita e di sangue caldo fa passi verso la notte e mi spinge verso certi cantoni, in certe case umide, in ospedali dove le ossa escono dalle finestre verso calzolerie con odore d'aceto, in vie terribili come fessure, penzolanti dalle porte delle case che odio. Vi sono uccelli colore dello zolfo e orrendi intestini, vi sono dentiere dimenticate in una caffettiera, vi sono specchi che dovrebbero aver pianto di vergogna e d'orrore e ombrelli da ogni parte, veleni imbeniti. Io vado a spasso con calma, con occhi, con scarpe, con furore e oblio passo, percorro uffici e negozi ortopedici e cortili dove a un filo è appesa biancheria. Mutande, asciugamani e camicie che piangono lente, lacrime, sporche. Ed eccoci rientrati in Iceberg News dopo questa toccante videopoesia, così apprezzata anche dal nostro regista qui accanto, e siamo sempre in compagnia con il nostro grande Manuli. Allora, io so di un libro che racchiude un po' il tuo mondo, la mia incapacità di stare al mondo. Sono foto e poesie e c'è un'introduzione di Abel Ferrara. Ci vuoi parlare un po' di questa tua... questo è... Beh, allora faccio pubblicità già che ci sono. Questo no, non è pubblicità, quando è arte per è noi... È un libro che è in vendita in Italia nelle migliori librerie, si chiama La mia incapacità di stare al mondo, e è diviso in due parti, una parte fotografica di un fotografo della Magnum che si chiama Fabio Paleari, e una parte poesie e brevi racconti che ho scritto io. Diciamo che il mio mondo, adesso anche quel libro ha qualche anno, mio mondo nel senso che io mi riconosco come una persona non capacissima di stare al mondo, cioè nel senso che le regole che ci danno per stare al mondo, ecco, io ti stanno un po' strette. Sì, non sono capace di adattarmi a queste regole, allora mi definisco un incapace, ecco, da quel punto di vista. Capito. E invece di progetti futuri? Progetti futuri c'è praticamente, diciamo, uno importante, è un film in parte autoprodotto, in parte finanziato dalla regione autonoma della Sardegna, che girerò a maggio, dal titolo Beckett, e poi, diciamo, questo è il progetto grande che purtroppo è stato tirato fuori dal cassetto, poiché dopo 2 anni di trafila ministeriale per accedere ai finanziamenti per l'opera seconda, praticamente non sono stato finanziato, e come non era stato finanziato Girotondo, non verrà finanziato il secondo, ecco, e andiamo avanti. Questa è la bellezza dei nostri tempi e delle nostre, della cultura del nostro paese. Speriamo di averti di nuovo ospite, certo, per presentare Beckett il prossimo anno. Insomma. Sì. Diciamo che sarà più breve girarlo e più lungo montarlo. Non so quando. Ma se io cito Inauditi Inuit? Inauditi Inuit è un documentario fatto al Polo Nord dalla... Diciamo un po' un documentario che ho fatto in Canada per documentare come gli eschimesi venivano curati attraverso la telemedicina, che poi però si scopre nel documentario essere una bufala, poiché questi aborigeni, questi eschimesi non vengono curati dai canadesi del continente poi. Ma queste cose ce le devi dare, noi le vogliamo, ce le devi dare perché noi le vogliamo trasmettere. E speriamo che il pubblico abbia la curiosità e il desiderio di vedere Girotondo in giro intorno al mondo, certo, che abbiamo presentato prima, che esce, ripeto, come inserto a Filmmaker Magazine, una rivista culto per i cinefili, che da oggi, da gennaio, è diventato mensile. Lo potete trovare in libreria e in edicola. Filmmaker Magazine, credo che DVD e rivista siano venduti a 9,90 euro, quindi un prezzo altamente, certo, concorrenziale. La prima uscita io trovo azzeccatissima, Davide Manuli, un film veramente poetico, e quindi speriamo di avervi incuriositi, insomma. Io ringrazio, okay, Davide, grazie, so che Paolo deve salutare qualcuno anche. Sì, sì, sì, noi salutiamo sempre e con grande gioia il Dune Club. Se volete vedere e seguire la programmazione, dunerestaurant.it, oppure cliccando sulla parte destra della nostra homepage Iceberg News. Vi invitiamo a visitarlo perché è un locale dove si ascolta e si gusta musica veramente di qualità e selezionata. Noi vi salutiamo e vi diamo un bel Alegre da Paolo Travagnini, Davide Manuti, ciao ciao.